Letture di Radio 24. I cowboy non mollano mai, uno dei 5 inediti del nuovo album di Max Pezzali, è anche il titolo di un'autobiografia scritta come un romanzo, nel quale il cantautore pavese ripercorre le varie tappe della sua carriera. Il grande successo arriva nel 1992 con Hanno ucciso l'uomo ragno e nel giro di pochi anni gli 883 diventano il simbolo di una generazione, ma non riescono a convincere la critica, che continua a dipingerli come un gruppo privo di ideali, come rappresentanti di una generazione vuota e legata solo ai valori materiali. La critica, rockerilla a parte, reagì malissimo al nostro successo inaspettato. Essendo un ex appassionato di generi musicali di nicchia, capivo perfettamente il loro punto di vista e dentro di me continuavo a sentirmi tendenzialmente in torto. Ma nella mia testa si stava facendo strada uno spiraglio. C'era una minima possibilità che avessi ragione io, proprio in forza delle mie frequentazioni musicali underground. A lungo avevo creduto che il motivo per cui mi interessavano il punk, la new wave e il rap consistesse nel fatto che erano tutti generi lontani dal pop. Con il tempo, e frequentando anche la musica mainstream, avevo capito che quello che mi interessava davvero di quei generi lì era il ritorno al semplice. In fondo, a me piaceva il punk, non il progressive o la fusion. Mi piacevano i 4, i 3, i 2 accordi di chitarra. Mi interessava solo che fosse roba facile. E quindi ho elaborato questa teoria. Il pop era l'unica salvezza, anzi, l'ultimo terreno di scontro possibile. In un'Italia di benessere diffuso, ottimismo e solidarietà nazionale, nell'Italia di Craxi, alla cui corte andavano anche i comunisti, non potevi più contrapporre un qualche sistema di valori alternativo, rifugiandoti in un genere di nicchia, ma potevi solo cercare di scardinare il perbenismo dall'interno, e quindi facendo musica pop. Di solito ci liquidavano come un'operazione in stile Italo Disco anni Ottanta, anche se in realtà di disco avevamo ben poco. Ma in generale si preferiva non parlare di noi. A un certo punto eravamo diventati quasi un tabù. La critica musicale italiana degli ultimi 20 anni ha sempre avuto una connotazione ben precisa, non necessariamente di destra o di sinistra, ma irrimediabilmente legata agli anni 60 e 70 e all'idea che il mondo si fosse fermato con l'omicidio di Aldo Moro. Qualsiasi cosa si allontanasse dai miti di riferimento, anche estetici, di quel periodo, era per forza sbagliata. C'erano il mito del progressive da un lato e il grande cantautorato dall'altro. Doveva esserci sempre e comunque una motivazione politica in qualsiasi scelta musicale. In genere, qualsiasi cosa avesse un synth, una batteria elettronica e un tempo in quarti, diventava automaticamente pop, quindi commerciale, quindi esecrabile. Per non essere definita commerciale, una canzone italiana d'autore doveva avere chitarre e strumenti acustici e al limite qualche chitarra elettrica rigorosamente non distorta. In tal caso sì, andava bene. Altrimenti il pop veniva tollerato solo e soltanto se conteneva un'istanza politica. L'idea che ci potesse essere una terza via, qui da noi, non era mai passata. Inoltre si pensava che tutti i musicisti prodotti da Cecchetto fossero automaticamente leggeri, di scarso valore. Lo stesso Jovanotti nel 92, e quindi a un anno dall'uscita di Una tribù che balla, stava facendo fatica a emanciparsi. Quindi o ti impegnavi a rispettare quei parametri che ti avrebbero garantito perlomeno lo status di non nemico, oppure eri considerato qualcosa di deteriore che contribuiva al decadimento della musica italiana, che invece nel decennio precedente aveva avuto dei picchi altissimi. Per la critica, gli anni 70 erano finiti con l'avvento della disco, da cui sarebbe poi nata la tanto vituperata musica da discoteca. Gli anni 80 erano stati il decennio peggiore. I 90 si preannunciavano come un loro strascico. Solo oggi capiamo la portata, per certi versi rivoluzionaria, della club music e della dance elettronica. Ma quanta difficoltà ha ancora oggi molta critica ad accettarlo. Non ne usciranno mai vivi. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Max Pezzali, I cowboy non mollano mai, la mia storia. ISBN editore, 224 pagine, 16 euro. Letture di Radio 24. In occasione del centenario della nascita di Piero Chiara, la Mondadori dà alle stampe una raccolta di saggi e brevi racconti dello scrittore di Luino, alcuni dei quali mai pubblicati prima d'ora. Tra gli inediti, La vita è un gioco, una riflessione scritta all'inizio degli anni Ottanta sul rapporto tra il vizio del gioco e la fortuna. La vita è un gioco e il gioco è la vita. Così almeno si dice, specialmente da parte dei giocatori che del loro vizio hanno grande rispetto. Infatti lo ritengono un'immagine o quantomeno una simulazione dell'esistenza umana, coi suoi alti e bassi, le sue sconfitte e le sue vittorie. I cuori non sono forse il segno dell'amore che presto o tardi travolge ognuno? E i denari non indicano il potere? Che le carte di fiori preannuncino buoni eventi e quelli di picche, disgrazie e guai è fin troppo noto. È il significato che le chiromanti attribuiscono ai quattro semi, siano quelli delle carte lombarde, cuori, quadri, fiori, picche, o siano quelli delle carte napoletane, coppe, denari, spade e bastoni. Nel gioco, la fortuna e la sfortuna, normalmente ritenute forze occulte, diventano visibili e quasi palpabili. Capita, al poker o allo chemin de fer, di vedere come un'ombra grigiastra alle spalle del giocatore sfortunato. Alle spalle di quello infortunio, invece, si disegna un alone luminoso. Ombra e alone, se il giocatore cambia posto, lo seguono, come una sua emanazione. Tanto è vero che il cambiar posto, l'andare al gabinetto o anche il fare un giro intorno al tavolo non serve a nulla. Il giocatore si porta dietro l'ombra o l'alone come una puzza o un profumo. Naturalmente non si tratta di ombre e di aloni evidenti allo sguardo di chiunque. Sono apparenze visibili solo agli iniziati, ai veri giocatori, a coloro che sono nel gioco di quelle presenze ineffabili e che ne accettano umilmente l'imperio. È un incauto colui che pretende di scacciare la sfortuna e più ancora chi pensa di poter trattenere la buona ventura presso di sé o di chiamarla al suo fianco, come si chiama un cagnolino. Le due apparenze, se così si possono chiamare, vanno da chi vogliono, oppure obbediscono a una legge che non è dato conoscere. Sono come la morte, che va qua e là a suo piacimento o a piacimento di chi regge l'universo. Ma perché, è lecito chiedersi, la sfortuna si accanisce su certi tipi e la fortuna si accompagna a certi altri? È un semplice caso o c'è una simpatia? Se c'è una simpatia, come ottenerla? L'impossibilità di aver risposta a simili domande ha dato credito agli amuleti e alle pratiche propiziatorie che non spostano nulla, ma testimoniano la presenza delle due apparenze e la loro funzione. Il fare le corna, naturalmente verso terra, serve, secondo alcuni, a scaricare le influenze nocive, così come il filo del parafulmine scarica nella terra le folgori. Per cui si ritiene che vi sia una specie di fluido a disposizione di alcune persone che ne possono fare uso, purtroppo prevalentemente nefasto. Da questa supposizione è nata la credenza nel potere iettatorio di alcuni individui, confortata spesso da verifiche impressionanti. Un noto scrittore, detentore al massimo grado di una simile forma, accompagnando dei visitatori al cancelletto del suo condominio, si avvide che un momento prima, mentre scendeva le scale, gli avevano rubato l'automobile posteggiata sulla strada. L'aveva appena vista dalla finestra e già era sparita. «Non andranno lontano», disse cupamente. Gli ospiti, andandosene con la loro automobile, trovarono quella dello scrittore accartocciata contro una cabina telefonica a un chilometro di strada e i due ladri che stavano per essere trasportati da un'autoambulanza all'ospedale e forse all'obitorio. Lo scrittore aveva operato a distanza, come un raggio laser. Era stato facile agli ospiti constatare che l'uscita di strada dei ladri si era verificata nel momento stesso in cui la frase iettatoria veniva pronunciata a un chilometro di distanza. «È il limite massimo della mia operatività», aveva detto lo scrittore appena appresa la notizia. «Ancora pochi metri ed erano in salvo. Sono misteri sui quali si specula facilmente, come su tutte le cose sconosciute o mal certe. Il giocatore che di tali fluidi fa continua esperienza si familiarizza con le presenze occulte. Alcune volte le personalizza in un compagno di tavolo, in un cameriere o in un oggetto qualsiasi. Un giocatore col quale ebbi occasione più volte di trovarmi al tavolo, quando perdeva con troppa regolarità, si alzava, andava all'attaccapanni, prendeva il suo cappello, se lo calcava in testa e riprendeva a giocare. Col cappello non perdeva più e spesso addirittura rovesciava la sorte e andava in vincita. Ma l'espediente ebbe breve durata, perché anche gli altri giocatori si alzavano e andavano a mettersi il cappello o il berretto, neutralizzando il potere di quel nuovo tipo di antenna parafulmini. Con gli episodi di gioco si potrebbero fare dei libri, e si può dire che in ogni libro, che parli in qualche modo di gioco, ce n'è più di uno, sempre legato a questioni di scalogna o di fortuna. Un tale, dal cognome assai comune nel quale chissà quanti potrebbero riconoscersi, ogni sera, quando si metteva al tavolo di gioco, perdeva fino alle 23, poi cominciava a vincere. Si seppe presto che sua moglie, appena uscito di casa il marito, riceveva un amico di famiglia col quale restava fino alle 23. Avete ascoltato la lettura di un testo di Piero Chiara, dal libro Il nobiluomo Batosti e altri racconti. Mondadori, 224 pagine, 10 euro. È risaputo che quando si gioca al casinò, il banco vince sempre. Ma ora una serie di ricerche dimostra che questa teoria è corretta, soprattutto quando si prendono in esame i giocatori seriali. Dal momento che l'algoritmo per vincere sempre alla roulette e a blackjack non è ancora conosciuto, se vi piace scommettere è bene che sappiate quante chance avete di stare sopra la linea di galleggiamento. Non è detto che poi continuate a giocare. Un calcolo condotto dal quotidiano Wall Street Journal sulla base di una grande massa di dati ha stabilito che la regola del banco vince è piuttosto vera. Se entrate al casinò o vi mettete online per una volta, le probabilità di vincere non sono pessime, il 30%. Le cose si mettono però male se siete giocatori seriali. Su 2 anni di scommesse regolari, la percentuale di coloro che vincono crolla all'11%. E la maggior parte di questi 11 su 100 non vince più di $150 su 24 mesi. I numeri diventano un abisso di sfortuna se si è giocatori pesanti, cioè se si scommette molto, come capita spesso a chi è preso dalla malattia dell'azzardo. Gli scommettitori che appartengono al 10% di coloro che puntano di più perdono nel 95% dei casi e ovviamente perdono molto. Per ogni vincitore di $5,000 sui 2 anni, ci sono 31 giocatori che perdono più di $5,000. Dal momento che i casinò sono parchi nel fornire dati, la statistica è il cuore della loro attività, ma i numeri sono in genere trattati come segreti industriali, l'elaborazione è stata effettuata su un database fornito dalla società di scommesse online bwin.party, che ha raccolto su basi anonime le puntate di 4.222 giocatori. Le percentuali estratte non dovrebbero essere molto diverse da quelle che si registrano nei casinò veri e propri. Uno studio effettuato da 2 ricercatori americani sulle case da gioco gestite dagli indiani d'America ha scoperto che sui 24 mesi solo il 13,5% vince, contro l'11% dell'online di bwin. Il banco conta insomma su chi dal gioco è dipendente. Il 2,8% dei clienti, i grandi perdenti, produce metà delle entrate. Il 10,7% lascia sul tavolo verde l'80% del fatturato dei casinò. E su chi pensa che la roulette sia una ruota per diventare ricchi. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Danilo Taino, ora è ufficiale, il banco vince sempre. Big Data rivela la regola del casinò, dal Corriere della Sera del 16 ottobre. Nei giorni scorsi la morte di Priebke e l'anniversario del rastrellamento nel ghetto di Roma sono stati purtroppo anche l'occasione di vergognosi episodi di antisemitismo, il più grave dei quali arriva dal matematico impertinente Pierluigi Odifreddi, come racconta Stefano Jesurum in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. Il noto matematico Pier Giorgio Odifreddi di mestiere scrive e insegna in università. Insomma, fa il maestro. A Latere si esercita anche nell'antica arte dell'intellettuale a tutto tondo, del grillo parlante, nella fattispecie blogger di Repubblica. E spesso inciampa, ruzzola, travolgendo il buon senso e il buon gusto, oltre che il rispetto per i lettori, l'opinione pubblica e la storia. Succede da anni. Le sabbie mobili in cui si perde sono sovente quelle dell'antisemitismo più o meno conscio e del negazionismo. È accaduto anche in questi giorni di sconvolgenti anniversari, fosse ardeatine, rastrellamento del ghetto di Roma e tempeste emozionali legate ai funerali di Priebke. Dopo aver sostenuto che i crimini di Israele sarebbero ben peggiori delle fosse ardeatine, ora sostiene che il processo di Norimberga sia stato un'opera di propaganda, roba da film e mitologie. Non entro nello specifico delle camere a gas, scrive Odi Freddi sul suo blog, perché di esse so appunto soltanto ciò che mi è stato fornito dal Ministero della Propaganda. Almeno sono cosciente del fatto che di opinione si tratti e che le cose possano stare molto diversamente da come mi è stato insegnato. Chissà, forse annuncerà di voler chiudere il blog per colpa del complotto contro di lui. L'aveva già minacciato tempo fa. Poi, ai noi, aveva beatamente ricominciato. Il docente. Facesse il bidello sarebbe cacciato da scuola. Facesse l'insegnante in un liceo, i genitori protesterebbero. Invece fa lo scienziato. Un paio di commenti scandalizzati, ma le sue opinioni hanno la forza della razionalità. Si dice uomo di sinistra, che non è garanzia di nulla. Le ricerche sui nuovi fascismi segnalano un'area di sovrapposizione tra le opinioni di una certa sinistra estrema e quelle della destra. E io dico, se Casa Pound e Odi Freddi sostengono le medesime tesi, non è certo un problema nostro, no? D'altronde, il buon vecchio August Friedrich Bebel lo ripeteva un secolo e mezzo fa che l'antisemitismo è il socialismo degli imbecilli. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Stefano Jesurum, Il matematico negazionista e le ragioni della storia, dal Corriere della Sera del 18 ottobre.